D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani con me. Sono Angelo dalla provincia di Chieti. Vorrei dedicare il cammino alla mia ragazza Barbara, che il 24 febbraio prossimo compirà gli anni. 5 anni e mezzo fa cominciava per magia il nostro cammino. Ti amo. Un valore che non va, sarà forse l'alcol che non mangio né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Con il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldato. Le tue canzoni sono stupende e non riesco proprio a resistere. Dedicami il cammino. Consuelo da Roma. Rallentato, cercato solo, solo un numero dalla televisione. Martedì 20 febbraio 2007, ore 21:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Small B, Vicenza. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Gigi, sono Antonio da Roma. Con quale remix vuoi deliziarmi? Luce o lo sbaglio? A te la scelta. Piuttosto. Questa è, mo' è difficile. Il cammino di Gigi D'Agostino. Penso è molto intenso, al nuovo buio io sono propenso, perché dal buio che sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Si produce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. In provincia di Genova, ascoltiamo il cammino di Gigi D'Agostino e ce ne battiamo il belino. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Marco. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Carol. Volevo dedicare Amore elettronico ad un amico molto ma molto speciale. Forse un giorno capiremo qualcosa, ma fino ad allora il sogno domina. Oh. cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Ciao Gigi, sono Andrea da Pavia. Fammi ascoltare un sogno, perché quando ho conosciuto Valentina, stare con lei era un sogno. Ora è realtà. Vorrei dedicare solo in te a Federica, EIW. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, sono Eugenio da Napoli. Vorrei dedicare il tuo remix di Carry On a tutti i miei cari e all'inossidabile cammino condotto e diretto da te. Un ti amo a 150 decibel alla mia Fabiana. Grazie a tempo, Samu da Arezzo, Re Giorgio, Ale, Ebre e Mene. perplessità. Manda la pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti scassa un pochino. Saluto il mio amore Luca, che ti ascolta tutti i giorni. Miao. Elisa. Questo è il cammino di Gigi Gattini. Il gattino. Un salutino dal mio topino a Gigi D'Agostino. Alessio ha 8 anni ed è un tuo grande fan. È forte. Un grosso saluto a tutti i ragazzi del forum gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom. In particolare a Mew e Dreyful. San Benigno 86. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Potete dire quello che volete a chi volete. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Gigi, con te e vado dai problemi di tutti i giorni. Romina. È il cammino del Gigi D'Agostino. Gigi, sono Diego da Luzzi. Non la potrò. Volevo dirti che senza di te e senza la tua musica sarei perso di solitudine. Volevo salutare mio cugino Valentino, detto Fresa, e Strudel, ma è una roba che si mangia. Gigi, sono Dani 88. Volevo salutare la classe quarta C turistico di San Luri. Suonaci, vorrei fare una canzone. Elena Tanz ha una voce stupenda. Grazie Dani. Gigi, suonami, vorrei fare una canzone per l'unica gioia della mia vita, mia mamma. Prendi da Togliani. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare, anche solo per Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi, sono a letto, sto male. Ah, è cazzino. Potresti suonare una delle tue vecchie canzoni per guarirmi? Certo. Aureliano da Pistoia. Gigi, siamo Cosimo e Valeria. Io sto lavorando, lei invece mi guarda. Puoi dirle per favore di darmi una mano a sistemare la casa? Bene che... Grazie. Gigi, sono a letto malata. dedicami una canzone. Ok. Titti da Cosenza. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Like a river that goes to the sea. This is the way that it has to be. Ringrazia a tempo Romy e Dani dalla provincia di Lucca, Azzurra di Boario Terme, Marco di Rivoli. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Officina emotiva, sabato 24 febbraio 2007, ore 22. Officina emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca La Fattoria, Brescia. Thank you. Gigi, vorremmo dedicare ad Aurelia e Lucia una tua canzone. Vi amiamo. Battista, Vito e Dario da Polignano a Mare. Sono Rosario da Pistoia. Vorrei dedicare una tua canzone a Miranda e ringraziarla perché lei, con il suo semplice vivere, mi ha insegnato cosa vuol dire vivere la vita, amando in libertà e seguendo sempre le proprie emozioni e le proprie passioni. Grazie. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi, sono Eugenio di Padova, quasi 38enne. Ti ho scoperto da poco, ma sei già un appuntamento fisso. È giusto. Domenica pomeriggio, sotto un meraviglioso sole spagnolo, in macchina per andare a ballare al Pachà, cantavamo tutti insieme Cambio casa. Vorrei dedicare questa canzone a Mattia, Vane e Gabri per ricordare quei meravigliosi momenti. Ricky. D'Agostino. Musica che unisce. Un bacione alla mia Elisa, che... che dopo 5 anni che non la vedevo, l'ho ritrovata più splendida che mai. Sandy, da Brescia. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. Posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno come me. E stasera do a lavare il mio vestito per l'amore. Cambio donna e cambio umore stasera. E stasera voglio uscire che mi facciano parlare. Voglio ridere, voglio bere io. Stasera cambio amore. Ma dentro casa, inverno e fuori, no. E vendo casa per un motore, la soluzione è la migliore. Un motore certamente può tirare. La mia fantasia è un po' danneggiata, da troppo tempo parcheggiata. Poi cambiare casa, come cambiano le cose. Gigi, mi chiamo Nunu e sono di Avellino. Ho 22 anni e ti ascolto da quando ne avevo 16. Vorrei ascoltare l'Amour Toujours e dedicarlo alla mia migliore amica Elena. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to someday you'll be my baby and we'll fly away and I'll fly with you. I'll fly with you. Voglio dedicare l'Amour Toujours a Ricky, perché sabato era la nostra festa e tra 5 mesi ci sposiamo. Ricky, ti amo tantissimo. Elena. Thank you. cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Mi sveglio, ho sonno, però buongiorno. Ho fatto un sogno di quelli porno. Mi alzo in piedi, mi corro intorno. Mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. Immagina, dentro una vasca, piena di schiuma, con la mia pelle profumata, un flute e il mio corpicino. Manca solo Gigi D'Agostino. Va dritta al cuore, scinde gli atomi della mente, trasformandoli in particelle di piacere. Anonimo. Officina emotiva. Sabato 24 febbraio 2007, ore 22. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca La Fattoria. Brescia. Ci vediamo lì.